Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Qui siamo in un nuovo video, quando porti la merenda a scuola. Nel senso che a voi sicuramente vi capiterà di portare la merenda, no? Niente, e a me chiedono sempre: me ne dai un pezzo? Me ne dai un pezzo? Me ne dai un pezzo? Oppure cercano di ingannarmi, ma non ci riusciranno. Ci sono alcuni che mi dicono: sto morendo ancora di fame, cioè ho ancora fame, e pensano che io, visto che ho un cuore, glielo darò. Io gli dico, visto che ci sono le macchinette e il bar, gli dico: va bene, vattelo a comprare, perché anch'io solo quel cibo che mi porto e non ho nient'altro, quindi smettetela. E comunque, ma ho capito male, ha detto la bambina: io sono quel cibo che mi porto. È una riflessione fantastica, che è la chiave di tutta la trasmissione. Ognuno dei miei compagni di classe era il cibo che si portava in classe. Il ricordo più scellerato che ho nella mia vita legato alle merendine è la sorta di questa quotidiana. Facciamo una questo a noi tutti, compagni di classe. Preparatevi una cosa schifosa, però devo dirla perché così mi libero la coscienza. Il primo della classe, il secchione, l'amato dei professori, quello che suonava il pianoforte, quello che era intoccabile, quello che non ci faceva mai copiare, era sempre perfettamente nel primo banco. Sotto il banco erano ancora i banchi quelli antichi, che avevano una sorta di piano sotto il posto dove si lavorava, metteva sempre la sua merendina, gliela faceva la mamma, gliela incartava con carta perfetta. Era mezzo sfilatino, bellissimo, sembrava tornito a mano da un artigiano, ripieno di marmellata, bellissima marmellata, fatta naturalmente a mano dalla madre. mi si rompe la voce dal pianto solo a pensare a questo ricordo, cioè in realtà c'ho ancora la bronchite. C'era un volontario che sempre, durante l'ora di lezione, visto che lui era molto attento a lezione, sottraeva quel panino per l'arco di tempo di qualche minuto da sotto il banco del primo della classe. Quel panino veniva aperto e viscerato, e c'era un raccoglitore che raccoglieva il contributo organico di ogni altro componente della classe. Sì, ognuno, e non ti fate le facce schifate, intonti, ognuno dava un ciuffettino di peli intimi, li metteva in un cartoccino e farcivamo quel panino con la marmellata con questo orribile contributo personale. Lo chiudevamo, rincartavamo il pacchetto, e per noi la ricreazione era soltanto il piacere di vedere lui che apriva il pacchetto e vedeva che anche quella volta in realtà non poteva mangiare il suo bel panino. Oggi parliamo di merendine scolastiche. Sono vari episodi di cronaca che ci fanno capire che in realtà l'attenzione non è tanto sulla buona scuola, non è tanto sui programmi, non è tanto sui professori, non è tanto sulla didattica, non è tanto sulle prospettive, ma su quello che si mangia a scuola. 800 24 00 24, a tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Ho 35 anni, non torneranno più le merendine di quando ero bambino. I pomeriggi di maggio non torneranno più. Le merendine di quando ero bambino non torneranno più. Le merendine di quando ero bambino non torneranno più. I pomeriggi di maggio, le merendine col pane e cioccolata. Mamma! Mia madre! Non tornerà più! Quando ero malato! Riflettete, mamme, i danni che rischiate di fare ai vostri figli se poi vi vengono come Nanni Moretti, soltanto per gli fatto le merendine col pane e cioccolata, sì. Pane e mezza tavoletta di cioccolata, fina, mezza, perché eravamo due fratelli, mezza una e mezza l'altra, non si sa perché. Anche in me fece danni questi. Poi c'era il pane, burro e zucchero, poi c'era il pane, vino e zucchero, poi c'era il pane e olio, e poi c'erano le merendine che si compravano dal droghiere, che era sempre una fetta di ciambellone, era una specie di cremina istoriata bianco-nera, che non sa cosa ci fosse dentro, ma sai, erano gli anni 60. Non si andava tanto per il sottile, si dice che le cremine le facessero con le unghie delle mucche con le quali poi facevano i formaggini, che è l'altra robettina che ve la raccomando. Perché voglio parlare di merendine? Ma perché mi sto rendendo conto che da settembre, da quando è iniziata la scuola, non si parla altro di quello che si mangia a scuola, più che di quello che si insegna o quello di cui si discute. Il Tribunale di Torino si è dovuto muovere per fare una sentenza, per rigettare il reclamo del MIUR, perché ha sancito il diritto agli studenti di portarsi il panino a scuola invece di andare alla mensa scolastica, che normalmente è sempre qualcosa che sa di galera, che sa di collegio dei preti e via dicendo. E poi c'è questa fulgida figura che in realtà non è nulla di originale, ma chissà perché si è guadagnato le prime pagine dei giornali. Oggi in prima pagina di Repubblica si parla del pusher di Moncalieri, un simpatico ragazzo di 17 anni, un istituto tecnico industriale, arrotondava il suo mensile, ma poca roba, sarà comprato un telefonino usato da 300 euro, facendo questa semplice operazione. Nel suo istituto c'erano delle macchinette che distribuivano le merendine, come ci sono qui al Sole 24 Ore, in cui una merendina costa un euro. Merendina è un velo di cioccolata con un po' di caccole dentro, confezionato, con scritto sopra energetico e via dicendo. E se uno va al supermercato qui di fronte costa 30 centesimi quella merendina. E lui faceva un'operazione molto semplice: andava al supermercato, le comprava 30 centesimi e le vendeva a 50. Tutti contenti, tutti ci guadagnavano, ma in realtà gli hanno fatto una nota come avesse spacciato cocaina. Voi cosa vi ricordate invece delle merendine che avevate a scuola e dell'indotto attorno a quelle merendine? Ho raccontato la più scellerata delle storie, l'infarcimento colpevole e vigliacco della merendina del primo della classe, che oggi sarà diventato un manager d'azienda, e i più grandi raccoglitori di peli intimi in realtà sono finiti chi in galera, chi drogato, chi non fa niente, chi c'ha la panza e sta lì con moglie e figli e guarda verso la finestra fuori in un orizzonte incerto. Carla, buongiorno. Buongiorno. Senta, no, la mia esperienza è una cosa simpatica che però ci è costata una settimana di punizione. Eravamo in seconda media e una mia compagna, un po' di scoletta, insomma un po' vivace, ha deciso che avrebbe rubato la merenda di quella più cicciotta della classe, che è quella che veniva sempre ben fornita di tutto. Quella mattina non so cosa gli è girato, questa ha preso la merenda e poi, per non farsi però beccare, l'ha lanciata, era primavera, c'era la finestra aperta, ed è finita su un albero in mezzo alle foglie. Arriva l'ora successiva la professoressa d'inglese, arrabbiatissima, perché questa piangeva disperata, la padrona della merenda. E poi la vedeva lì, era il supplizio di tantalo, la vedeva davanti a sé, sembra quasi potesse toccarla e non poteva mangiarla. Infatti la vedeva sull'albero, solo che questa, la professoressa urlante, chi è stato, se non salta fuori, punizione a tutti, solo che non ci andava di spettegolare, non ci andava di mettere in cattiva luce la nostra compagna. Poi la cosa era talmente divertente che continuavamo a ridere. Alla fine punizione in tutta la classe per una settimana, niente intervallo, praticamente abbiamo saltato l'intervallo per una settimana, finché poi è uscito che alla fine della settimana, insomma, vabbè, la storia è banale, ma vorrei sapere che fine ha fatto con la merendina che è rimasta lì esposta. È andata poi a riprendergliela, sì, no, gliel'abbiamo ripresa. Qualcuno è salito sull'albero e l'ha restituita. Ma è stato un lancio tipo frisbee ed è rimasta là sull'albero in mezzo al cortile della scuola. In più, calcoli che eravamo in una scuola privata di suore negli anni 70, quindi c'era molta, insomma, dovevamo rigare dritte, però è stato divertentissimo. Per una settimana tutta la classe in punizione. Mi consolo pensando alle vostre vite dissolute una volta che vi siete liberati dal gioco delle suore. Rosario, buongiorno. Salve, buongiorno. Confessi pure quello che ha lei sulla coscienza. Più che altro ne sono fiero, non è che ne vado tanto, non mi vergogno di questa cosa. Praticamente quello che facevamo è molto semplice: in primo superiore notavamo dai primi giorni di scuola che c'erano molti compagni di classe nuovi, alcuni conosciuti, la maggior parte conosciuti da pochi giorni, che dimenticavano o non si organizzavano per la merenda, diciamo, di metà mattinata. E così io e un altro mio amico pensavamo che, poiché la mattina prendevamo il treno per raggiungere la scuola da Battipaglia a Salerno, avevamo un po' di tempo per comprare una decina di panini e di venderli in classe. Poi il mercato si ampliò anche alle classi, diciamo, vicine, quindi noi riuscivamo a vendere dei panini allo stesso prezzo della salumeria sotto la scuola. No, però mi faccia capire, Rosario, per una cosa simile è stato sospeso l'eroe di Moncalieri, di cui oggi parla Repubblica in prima pagina. Al tempo, penso una ventina d'anni fa, più 25 anni fa, come si è comportata la scuola con voi? Passava come lecito questo mercato? No, la scuola, diciamo, i bidelli anzi avevano capito questa cosa e non facevano niente di... Ma non c'era il racket dei bidelli? A miei tempi c'era un racket dei bidelli, vendevano loro le merendine sotto banco. C'erano anche i bidelli che vendevano, ma era una concorrenza leale, diciamo. Noi vendevamo i panini e loro vendevano penne, quaderni e altre cose. Quindi c'era un mercato di sottobosco tollerato. Cinzia Leone, buongiorno. Buongiorno. Cinzia Leone è una collega che abbiamo preso per i capelli e portato in studio perché mentre stavamo preparando la trasmissione ci ha confessato che ha dei trascorsi legati alle merendine. Ricordo che è un'autrice, una graphic novelist e una giornalista. Allora, Cinzia Leone, le merendine quanto hanno inciso nella tua esperienza artistica e nella tua futura carriera? Beh, mi hanno regalato soprattutto il mio primo soprannome, il soprannome delle elementari, ed era Pizza e Apocalisse. Mi chiamavano così perché andavo a scuola dalle suore. Ma tutte dalle suore andavano? Sì. Vabbè, che anch'io andavo dai frati. Anche tu andavi dai frati. Qua ci ritroviamo. E tutta quella storia di merendine, tua era dai frati naturalmente. No, dai, certo, dai salesiani. Che i salesiani non volevano che ci fosse il traffico di merendine perché il racket lo teneva al bidello. Tanto meno le nostre suore, tutte noi avevamo le merendine portate da casa e tutte noi facevamo 20 minuti di cappella, no? Di funti preghiere, di letture religiose nella cappella adiacente alla scuola. Ma questo non bastava alle mie compagne, loro erano pazze per l'Apocalisse. Voi dovete sapere che la lettura dell'Apocalisse è il primo vero horror della letteratura. Sì, mica la leggevano tutti i giorni. Ah, adoravano questa cosa. Siccome gli adoravano che fosse letta con un po' d'espressione, io mi prestavo a questo e in cambio avevo un pezzetto della loro merenda. Quindi tenevo le 50 lire, 100 lire, 200 lire, non mi ricordo quante erano quelle che dava la mamma, e mi compravo i libri. Ma era un sottile gioco perverso. No, era veramente una cosa... Cioè una, tu leggevi l'Apocalisse, sì, alle bambine. Sì, e sì. Loro in cambio... Con l'espressione, cioè facendo paura, con i toni di voce. Allora gli angeli arrivarono e la pece colò e il e come sangue, oggi, che ne pure... so, dargli una puntata, sì, di Black Mirror, sì, pirata, esatto, su una chiavetta. Sì. Facevo questo, biecamente, ma tutto questo per risparmiare i soldi che la mia mamma mi dava per la merendina, per la pizza, per quello che era, e comprarmi dei libri. Quando mia madre vide... Allora, sembra una cosa libro cuore, non ci, sì, credo, dai. Sì, è la piccola vedetta lombarda. E quando mia ti madre compravi una bottiglia di vino, dai, non mi dire questo. Vide impilarsi i libri sulla mia scrivania e dice: ma con che soldi le comprate? Gli raccontai il trucco che avevo inventato, un trucco terribile. Fui portata naturalmente da mia madre alla madre superiora, fui redarguita, si interruppe questa recitazione, ma è stata una delle cose più divertenti. Ma tua madre ti ha abbracciato come il piccolo scrivano fiorentino? No, mia madre mi ha trattato malissimo, ha detto questa era speculazione, che facevo una cosa terribile. E quindi i libri li hai dati ai poveri? E lì nacque Pizza. I tuoi libri che fine hanno fatto? L'hanno dati ai poveri? No, furono messi nello scaffale più alto, li potevano leggere i fratelli o no, io dopo molti sempre mesi... Sempre una punizione c'è dietro. C'è sempre una posizione. Comunque questa storia è vero quello che dicevamo prima, cioè le merendine erano il regno delle differenze, non solo, sì, tra ricchi, poveri, alti, bassi, i grassi che dovevano mangiare poco e quindi rubavano dagli altri, ma è stata anche l'unica, anche di recente, l'unica zona dell'alimentazione che sfugge agli chef. Cioè, in fondo, Bottura non ha mai scritto niente sulle merendine, no, nemmeno perché... Vissani. Quindi è una zona franca, libera, nostra. Ancora un mercato non inquinato, è un mercato non inquinato e infatti c'è il pusher. Io invidiavo tanto quelli che hanno il triangolo di pizza col formaggio, che a me non me lo compravano mai, perché c'erano che faceva male, non so, le cose sane si fanno a casa. Tutte le mattine potevano andare anche loro con qualcosa come 30 lire, non so quanto costasse. Dal droghiere davanti alla scuola gli incartavo questo triangolo di pizzona fragrante e sentivo il profumo, lo amavo tanto. In realtà c'erano dei squalli di panini duri del giorno prima con una merlatina squallida, Zueg, che mi metta dentro mia madre, se no il solito pane, burro e zucchero, e faceva vomitare. Ci fermiamo un istante, tra poco, merendine. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ok ragazzi, sono le 10, potete cominciare a fare colazione. Professoressa, non ho la merenda io. Finalmente patatine. Ah, non vedo l'ora di mangiarle. Mi dispiace tantissimo, Lara. Allora chiedi a Chiara se può darti un poco della tua merenda. Un poco della mia merenda? Buonissimo. Oh, grazie, Lara, mi hai salvato la vita. Ne mangerò solo un poco, così perché la merenda è tua. Ok, non ci sono problemi, non ti preoccupare. Poi c'erano le mamme che vietavano lo scambio delle merende, eh? Non mangiare la roba che ti danno gli altri, chissà con cosa è fatta, chissà cosa ci mettono, fa male. Solo quello fatto alla mamma non faccia male, solo quello salvava la vita. Lucrezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io l'esperienza delle mie merende quando andavo a scuola, io tragica, mi ha segnato tantissimo, perché io andavo in una scuola di suore dove si poteva acquistare la pizza. E nei no, primi scusa anni... Lucrezia, statisticamente sì. È la terza persona che andava a scuola dalle suore in 10 minuti. Ma le suore hanno avuto sotto le loro tonache mezza Italia, mi sembra di aver capito. Sotto le loro grinfie, più che altro. Sì, vabbè, più o meno la stessa cosa. E dunque, nei primi anni di vita mia madre mi permetteva di comprare la pizza. Poi non so perché questa cosa è stata interrotta e lei mi dava dei pacchetti di crackers come merenda, che già è una merenda triste di per sé. Squallida, la più squallida, esatto, delle merende. E insieme e con problema... cosa? Integrati con cosa i crackers? Solo crackers? No, crackers e basta. Nemmeno mezza cioccolatina. Psicanalista. No. Il problema si proponeva molto forte quando cominciava a far caldo. Il bar interno della scuola vendeva i gelati e a me era assolutamente vietato comprare il gelato. Quindi sia la merenda la mattina, sia quella del pomeriggio, perché facevo il tempo pieno, e avevo i miei amici che compravano il gelato, io con 40 gradi stavo con questo tristissimo pacchetto di crackers invidiando gli altri, che ovviamente non accettavano minimamente lo scambio. Salati in superficie naturalmente, così sì, veniva più sete, certo. Esatto. E l'unica acqua da bere era quella dei gabinetti. Esatto, rubinetto. Al rubinetto, sì. E invece a scuola conosco. Di mio figlio c'è uno spaccio di merendine assurdo, nel senso che io tento di dargli merende sane, il panino col prosciutto, e invece lui, ho scoperto che va a scuola e tenta di scambiare un pezzo della sua merenda con, per esempio, i salamini, quelli piccoli affumicati, o con i wurstel, quelli piccolini. E quando gli do una merenda che non è abbastanza appetitosa, mi dice: mamma, ma poi con me non la scambia nessuno. È interessante, Lucrezia. Allora, Cinzia Leone, ti prendo come esperta in merendine, ma cerchiamo di capire insieme perché la merendina del compagno è sempre più buona della nostra e perché questo controllo indissolubile delle mamme sui figli si propaga anche attraverso la somministrazione coatta di una merendina che loro non piace. Assolutamente, ma la verità è che l'ultimo momento collettivo è anche l'ultimo cordone ombelicale della mamma nei confronti del figlio, no? Cioè nutrizione assoluta. E si sente oltraggiata se non la dà un'altra. Perché, insisto, questa storia dei cracker è abbastanza grave, no? Ne avrà appunto, turbe avrà messo da parte certo. I soldi per lo psicanalista, immagino, perché questi cracker dati per tutta la scuola inferiore, credo che sia una cosa che la poi può aver provata, quelli già un po', no? Mosci, già che li mangi sei, non sono più sì, fragranti, sì, se sono vecchi. Esatto. Poi gli stessi la mattina e il pomeriggio, c'è cioè una mamma che ti vuole uguale, identica e molto salata. Insomma, è terribile. Comunque in realtà è il crocevia dell'alimentazione, cioè, e degli scambi, abbiamo scoperto che è un territorio franco. Un tuo collega diceva: mi piace perché è salatina. Ettore, buongiorno. Pronto? Sì. Ah, buongiorno, signor Nicoletti. Dunque, io non so se conosce Milano, ma io a cavallo degli anni 50 e 60 andavo a scuola a Bercé, che era una scuola d'élite delle scuole medie. Uno dei più titolati licei milanesi. Ecco. Allora, io siccome ero figlio di un semplice poliziotto, ero capitato lì perché avevo studiato dai salesiani, ero abbastanza bravo in materie umanistiche, ho superato un piccolo esame e mi avevano accettato. Poi naturalmente quando c'era l'orario delle merendine, mia mamma, poveretta, mi dava quello che poteva. Scattava il divario sociale in quel momento. Ecco. Lei poteva poi millantare quello che voleva, anche... ma quel momento... Poi c'era qualcuno perfido anche perché, sai, come vedevano che io o non avevo niente, avevo poche cose, una fetta di pancetta, mi mostravano questi bei biscotti della salute. E cosa le dava sua madre? Cosa le dava sua madre? La mia mamma qualche volta riusciva a darmi, non so, una fetta di pane a burro, quando si poteva, perché poi... Però il fatto era questo, che mi dava 50 lire perché io prendevo il tram da Piazzale Corvetto, la Porta Romana, uh-huh, perché conosce Milano, e naturalmente il ritorno, siccome avevo una fame boia, perché era così a quell'età, no? Poi alle volte non avevo anche nulla da far merenda, mi facevo... È caduta la linea. No, non mi sente? No, se è caduto, no, lei al ritorno cosa faceva? Non pagava il biglietto e si pigliava da mangiare? Ah, mi facevo a piedi con questa cartella fino a Piazzale Corvetto per comprarmi una focaccina calda, che era una delizia, no? Naturalmente io ogni volta che c'era l'ora della merenda per me era quasi un dramma. Ecco, questo è, come ha detto giustamente prima Cinzaleone, è il momento in cui cadono tutte le mistificazioni, tutte le apparenze di omologazione sociale, il vero divario di classe si vede al momento della merendina. Chi ha il biscotto della salute e chi ha una fettaccia di pane col burro, Cinzia. Anche il grembiule era in fondo una forma di democrazia. Sì, quando è certo saltato il grembiule, si è scoperto che c'era si sotto. È scoperto cosa c'era sotto, cioè i Goff di Kashmir o piuttosto... Infatti noi parliamo di un'epoca in cui c'era il grembiule, che eravamo tutti infagottati con la stessa divisa, quindi si vedeva un po' meno, dalle scarpe si intuiva qualcosa, ma sai, poi alla fine non è che c'erano molti modelli di scarpe ai nostri il tempi. Il grembiule come la divisa è una forma in qualche modo di omologazione, no? E anche diciamo di evitare, il regolamento mio liceo diceva evitare le esibizioni snobistiche. Una volta mio fratello si mise un frac, andò a scuola in frac, infatti lo cacciarono. Giulio, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire in merito alle merendine della vicenda, ho sentito della vicenda del ragazzo che acquistava al centro commerciale, poi... Quello rendeva. Di Moncalieri, sì. Esattamente. Un eroe, secondo me. Un eroe. Io volevo riportare la mia esperienza, che è molto particolare, nel senso che io alle scuole superiori, come penso tutti, avevamo queste macchinette. La particolarità è che noi facevamo un liceo informatico ed il nostro professore ci lanciava a volte delle sfide. Le macchinette spesso funzionano con una chiavetta che si può ricaricare, insomma. Noi dopo un po' di tempo siamo riusciti praticamente a decifrare l'algoritmo di ricarica e sostanzialmente ci ricavavamo dal computer la chiavetta senza... Cioè craccavate le chiavette come le schede dei decoder della televisione satellitare negli anni 90, uguale. Esattamente, facevamo la stessa cosa. Bastava avere chiaro l'attrezzatura necessaria per degli informatici, non era difficile, bravi. Esatto, no, anzi, proprio un'attrezzatura che tranquillamente con 5 euro si acquista, quindi addirittura per mio sfizio qualche mesetto fa alla metropolitana di Milano e devo dire che ancora funziona. Ma era le stesse per clonare le card del decoder, mi ricordo che tutti ce l'avevamo, si infilava la card, si attaccava al computer e si trovavano i codici. Ecco, lì è una cosa un pochino più particolare, perché da smontare la chiavetta, collegarlo ad un multipipo che è uno strumento per che comunica sostanzialmente con la memoria della chiavetta al computer, e dopodiché avevo scritto un programmino che mi ricaricava. E mi ricordo che all'inizio noi prendevamo una, due merendine, tre anche a volte al giorno, dopodiché ci siamo fatti un po' prendere la mano fino a che un giorno si presentano i carabinieri dicendo che c'era stato un problema, stavano indagando per truffa perché c'era uno sgravo di circa 2000 euro. Voi quindi... potreste comunque andarvi in giro per tutta Italia con la chiavetta e mangiarvi quello che volete, bellissimo. William, no, beh, William. Più che altro... Ah, sì. Il codice era diverso da macchinetta a macchinetta, però comunque ci voleva poco a clonarlo. Adesso non c'è niente da fare, clona chiavette per macchinette. Bellissima, una truffa, non l'avevo mai immaginato. William, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, finalmente io oggi posso scaricare questo mio... peso sulla coscienza. No, penso no, però questo mio vissuto all'elementare. Allora, dalle mie parti c'è una industria dolciaria che fa un tortino tipico. Cosa succede? Questo qui era diventato per le mamme una maniera semplice per farci fare merenda a scuola. Io parlo dell'elementare, quindi 25-30 anni fa accadeva questo. A un certo punto succedeva che questo tortino confezionato, quindi chiuso a livello meccanico, industriale, tipo Fiesta, tanto per dire, quello... sì, tipo Fiesta, era trasparente l'incarto. Cosa succedeva? All'interno ogni tanto ci capitavano 100 lire, 100 lire, 200 lire, 50 lire. I soldi dentro la merendina? Esatto, cioè i soldi, gli spiccioli proprio. E come mai? È perché sicuramente i controlli all'epoca erano meno di zero. Ah, sabotaggio industriale. Ma può darsi, comunque è uno schifo veramente, no? Perché pensate un po' al discorso delle monete che vanno a finire ma non soltanto vanno a finire sul dolce, ma addirittura rimanevano. Vabbè, qualcuno ci ha trovato i topi, gli scarafaggi, alla fine. Sì, forse infatti, quello forse era anche il minimo. Ma la cosa peggiore non era questa, era che la nostra maestra diceva che eravamo fortunati, cioè chi trovava il soldino che non è il soldino di cioccolata come poi fece quell'altro marchio nazionale, ma era il soldo, proprio la moneta, ma siete fortunati. Quindi alla fine la cosa che a me ha sempre stupefatto, ora capite voi, io ci ho provato. Vabbè, c'era vecchie favole in cui si trovava il soldino, lo portava al topolino. Infatti, però a 7-8 anni pensi a tutto tranne che alla questione della sicurezza. Ma a me invece questa cosa, nonostante tutto, mi faceva allibire, perché dicevo: ma è possibile che la maestra ci dica che siamo fortunati? Ma questo è uno schifo. Che a casa tutti ti dicono che i soldi sono sporchi, lavarsi le mani dopo che sono toccati i soldi. Vabbè, la maestra era più attaccata al vile denaro che alla vostra salute, evidentemente. Dice: beati voi che ho trovato il soldino dentro la merendina, poverina. A tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, questa mattina parliamo delle merendine. Guardate che il problema è interessante. Mi fanno riflettere gli ascoltatori tramite SMS che il vero divario, il vero spartiacque, il vero solco della sofferenza era tra chi la merendina l'aveva acquistata, quindi erano merendine fantastiche, belle, ben confezionate, lussuose, succulente, pizze con le olive, tortine farcite, panini che si comperavano dal droghiere, quindi fatti bene, panini all'olio tagliati, col prosciutto tagliato bene con l'affettatrice, con il formaggio buono, richiusi, con la carta oleata, e chi invece per risparmiare o per un senso di mito delle cose buone fatte in casa aveva la roba portata da casa, che si andava dai crackers, come la nostra povera distrutta nella psiche ascoltatrice di poco fa, ma anche il mandarino e la mela. Qua mi scrive un ascoltatore che si vergognava che lui andava a scuola con il mandarino e la mela, gli altri tiravano fuori la pizza farcita e 5 formaggi e lui aveva un mandarino in mano, poverino. Manuela, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei infatti stava raccontando una cosa che proprio è quella che avrei voluto dire, cioè mia mamma aveva un General Alimentari, per cui la mattina era sempre pronto un panino meraviglioso con il prosciutto che io odiavo, e in questo negozio arrivavano poi tutte le mie amiche. Che al pane non hai denti, come sempre. Certo, e queste mie amiche invece, che chiaramente avevano meno disponibilità, con 25-30 lire, prendevano questo pezzo di, nel mio paese che è ai confini dove sono nata, della Toscana, si chiamava Schiaccina. La schiaccina, sì, era quella che sì, dicevo meravigliosa, io. Quella che aveva il buchino nel mezzo con sale grosso e rosmarino. Insomma, io appena uscivo dal negozio e mi incamminavo con questo gruppetto. Che era bella unta, lasciava proprio un bel alone di unta. Sì, unta, ti avevi tutte le dita d'unte. E mi ricordo che appena uscita, immediata, c'era questa mia amica battezzata, lei, che immediatamente c'era questo scambio, prendevo questo triangolo di schiaccina o quadrato, quello che era, e lei prendeva il mio panino col prosciutto, che io odiavo. Infatti ancora ora il prosciutto, poi dove abito ora c'è un prosciutto dolce, non è assolutamente quello toscano, bello saporito. E quindi niente, lo scambio veniva fatto addirittura a due passi fuori, tanto mia mamma era dietro il bancone, non è che venisse fuori a guardare cosa faceva la bambina. Scusa, ma avendo un negozio sua madre alimentare, non poteva farsi dare la schiaccina alla sua madre? No, non voleva mia mamma. Mia mamma voleva che io andassi a scuola con il panino al prosciutto. Era una fissa sua, insomma, lei voleva che il mio panino fosse, cioè la mia merenda fosse una merenda, forse secondo lei, più migliore, ecco, più sostanziosa. Non so, il controllo ombelicale delle madri continua in una sorta di legame ininterrotto e virtuale attraverso il nutrimento, che è quello che deve dire la mamma, per quello fa bene. Manuela, ha parlato Luca. Salve, buongiorno Nicoletti, volevo raccontarle la mia esperienza rispetto alle merendine. Io ho 27 anni, vengo da Napoli e alle scuole superiori mia mamma mi dava i 2-3 euro per comprare la merendina, però io non li spendevo perché in classe negli anni abbiamo adottato... Si allontani un po' dal telefono perché... Sì. Ecco. Abbiamo adottato un sistema un po' particolare, facevamo tutti i giorni una scommessa su di me e se riuscivo a mangiare un pezzo di pizza in un morso solo i ragazzi me la regalavano e io per circa un anno, due anni alle scuole superiori ho mangiato a gratis perché riuscivo a ingozzarmi diciamo facendo questa scommessa della pizza che dei miei amici che mi regalavano. Sì, diciamo che la merenda era sempre la posta per giochi di ardimento, per gare con le figurine, per umiliazioni, insomma era la cosa più preziosa che ci portavamo dietro a scuola, perché soldi in tasca di solito ne hanno pochi bambini, almeno fino alle ultimissime generazioni. Oggi possono scambiare, che ne so, le ricariche del telefono, l'uso e l'abuso della propria connettività. Una volta c'era ben poco e sulla merenda si giocava tutto, anche perché c'era questo filo affettivo. Prendere la merenda a un altro compagno o inquinargli la merenda, come facciamo noi in maniera scellerata, era rompergli la continuità dell'affettività materna, del rapporto con la famiglia. Era come farlo precipitare in una sorta di limbo in cui si sentiva solo. Oreste? Io nei primi anni 50... Spenga 50. La radio, spenga la radio, sennò ce l'eco. Sì, nei primi anni 50 correggevo i compiti dei miei compagni, ero bravissimo in latino e il professore faceva correggere i compiti scambiandoli, ognuno correggeva mentre lui scriveva alla lavagna la versione giusta e i due che mi facevano, dai quali correggevo i compiti alternativamente, compravano una bella ciambella con sullo zucchero tutti i giorni o un plum cake, okay? Non c'erano i distributori, era sempre roba bella fresca del panettiere, gratis tutta la settimana. Lei non si è preso nessun, diciamo, problema di glicemia così? Assolutamente, non c'era tanto da c'era poco da mangiare e tutto quello lì era tutto grasso che cola. Quindi lei aveva messo su un'attività di correttore in cambio di merendine zuccherose. Beh, questo è già un'attività lievemente più nobile del bieco spaccio sottobanco, che comunque dà un servizio ai propri compagni. Massimo. Buongiorno Gianluca, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Allora, i miei ricordi riguardo alle merendine sono più che altro a mio compagno di banco, che era un gordo incredibile, cioè del tipo che lui voleva sempre trovare tutte le mie merendine, a tal punto che mi fece arrabbiare. Allora un giorno portai a scuola un blister di confetto Falqui e lo lasciai sul banco dicendole che erano molto buone e puoi già immaginare il risultato. Sì, perché sembravano caramelline alla prugna, era fatta apposta che i bambini si purgavano con l'infamia del ricatto. Mangia la caramellina alla prugna, e poi c'era anche la dolce Ochessina, sembrava una caramella zuccherosa. Sì. Però dopo ti venivano gli sconvolgimenti intestinali in un istante, certo. E il fatto che lui ne mangiò un blister intero ingordo anche il giorno seguente, per cui puoi già immaginare i risultati. Vabbè, si faceva anche con il Guttalax in tempi più recenti. L'inquinamento alimentare era una delle forme di bullismo più schifose, perché era tra le più insidiose e le più infide. Ci sentiamo domani.